Quindi, se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 Mattino" di Alessandro Milan. Sono il signor Wolf. Risolvo problemi. Ah, bene, ne abbiamo uno. Hey mambo, mambo italiano. Hey mambo, mambo italiano. Go, go, go. You mix up siciliano. Oh, you Calabria that do the mambo like a crazy weather. Hey mambo. Oggi finalmente abbiamo una riforma che dice: leggi fatte in modo più semplice, meno politici. Via il Senato così come lo conosciamo oggi. C'è il rischio che con il referendum gli italiani votino per te o contro di te. Questo rischio c'è, però secondo me la riforma costituzionale è una riforma che deve votare sul Senato, non su di me. Poi è chiaro che io devo trarne le conseguenze, perché ho fatto il governo per fare le riforme. Siamo riusciti laddove nessuno riusciva a ottenere il risultato. Se non ce la facciamo, è giusto che si vada a casa. Tranquilli, tranquilli, non sta parlando del referendum di domenica. Renzi non sta parlando del referendum di domenica, ma quello di ottobre confermativo della riforma costituzionale. Quello di domenica invece è una bufala, così disse Renzi, una bufala. Poi vado su Repubblica, leggo un'intervista a Briatore: ma lei ha i conti a Panama? No, è una bufala. Poi Lorenzo Nespoli mi mette: mambo, pizza, ragazzi, c'ho già fame. Questo è il risultato. Ho letto i giornali e mi è venuta fame. Poi quel pensiero subliminale che ti arriva nella testa dice: ma perché ho già fame? Vorrei un montone in questo momento alle 6.30. Beh, certo, il referendum è una bufala. Briatore ti dice: ho i soldi a Panama, è una bufala. Questo mette mambo con la pizza. E io c'ho fame. Se dice you get happy and... M'hai provocato e io ti distruggo adesso. Io me ne magno. Eccolo là. Si comincia così questo venerdì, signori. È venerdì. Urlatelo tutti quanti, anche quelli che lavorano il sabato e la domenica. Dai che è venerdì, eccolo qua. E vai che è venerdì. C'è Rosanna da Portogruaro che dà il buongiorno ai suoi radiologi preferiti. Radiologi siamo noi, caro Peter, sei un radiologo. Hai mai pensato di fare questo nella vita? Cosa fai come professione? Radiologo. Peter Bescapè, puoi dirlo. C'è Rosanna da Portogruaro che ci investe di questa capacità. Poter dire siamo radiologi. Eccolo qua, saluto il radiologo Lorenzo Nespoli e il radiologo Peter Bescapè. Io sono il radiologo Alessandro Milan e questo è 24 Mattino, eccoci qua. Oh Milan, hai anche tu WhatsApp? Sì, però Marco Fornaio da Ravarino, ben trovato, una bella chilata di focaccia, ciao, ciao. Dobbiamo passare di lì però, perché per la chilata di focaccia se ce la mandi... giusto, giusto, mi scrive anche il Meratese, mi ha scritto anche sulla pagina ufficiale di Facebook che ho aperto, giornalista, lì così, giornalista, sempre meglio che scrivere un lavoro vero, giornalista. Allora, sono le 6.35, andate a trovarmi su Facebook, non però sulla pagina, sul profilo personale, per favore. Lì non do l'amicizia se non a Luisella Costamagna, ecco, a Luisella Costamagna la do l'amicizia. Luisella, buongiorno. Buongiorno. Tanto non me l'hai chiesta, quindi. Ma non me l'hai chiesta, quindi è inutile che no, fai. No, ma perché anch'io sono su Facebook come personaggio pubblico, per cui non posso personaggio ricambiare pubblico. Le richieste di amici. Amici sono pochi e si contano sulle dita di una mano. Cioè, non hai neanche un tuo profilo così? persona. No. Da no. Personaggio pubblico, poi intervengo. No, sì, vabbè, sì, è... no, uno proprio personale, nel quale poi si misura il fatto a chi dare l'amicizia. Cioè, io ti chiedo l'amicizia, lui se la mi dà l'amicizia, dai, ti prego, dammi l'amicizia su Facebook. No, non fai queste cose. Va bene. No, ma comunico molto sui social, devo dire, ecco. Con grande gratificazione e grandi critiche. Se non ci fossero le critiche, se no, sai che no. I tizzini sono come i berlusconiani, ricevo gli stessi attacchi. Ecco. Allora, insieme a Luisella Costa Magna c'è il vice direttore di Libero, Massimo De Manzoni. Ben ritrovato, Massimo, eccolo qua. Vado al massimo, si sa. Questa l'abbiamo studiata per ore, Massimo. Cioè, ci siamo messi lì 10 autori. Dice, che canzone possiamo dire? Neuroni. Dove sei, Massimo? Ci sei? Pronto? Ci senti? No. Vado al massimo, infatti vedi, vado al massimo, l'abbiamo pensato in 10 ore. Per te Luisella è un po' difficile, c'è una canzone con Luisella? No. Che amarezza, così, che no, nessuno ha mai fatto questo tipo di canzone. Allora dai, adesso Massimo De Manzoni lo recuperiamo, eccolo qua, ma vedete queste cose però che succedono intanto, mentre apriamo il Parlamento, ci arriva... Il nostro ascoltatore che ci segue sempre, Jesco, ci manda una foto. Sai da dove ci ascolta, cara Luisella, in questo momento? Dove ti stanno ascoltando? Da Krasnoyarsk, in Siberia, dove ci sono 2 gradi sotto zero. 2 gradi Quanti? Sotto zero. 2 gradi, 2. Ma solo, pensavo peggio. Ma siamo al 20 di aprile ormai, più o meno. Siamo a fine aprile. Un bel meno 20. Ma no, dai, siamo a fine aprile. Eccolo qua Massimo De Manzoni, l'abbiamo recuperato. Massimo, buongiorno. Buongiorno. Dove eri sparito? Facevi finta? Sono sparito subito. Ancora prima. La linea subito. Di cosa stavate parlando? No, niente, stavamo cazzeggiando con Luisella Costamagna. Stavamo parlando male di te. Come sempre. Sentono sempre torto. Ecco, allora no, stavo parlando di bufale. Io mi è venuto fame subito perché la bufala al referendum, Briatore che dice una bufala ai soldi a Panama, e io mi è venuta fame subito. Però qua abbiamo Luisella Costamagna che sicuramente andrà a votare. Eccola qua, dai, su. Luisella, tu vai a votare? No. Allora, io vado a votare, bisognerebbe andare a votare, trovo molto triste che l'ex capo dello Stato e il Presidente del Consiglio invitino a non votare in un paese che ha già un'astensione record, per cui invito caldamente tutti ad andare a votare, perché votare è un dovere civico, questo prevede la nostra Costituzione, poi votassero come credono, io voto convintamente sì. Per dire stop alle trivellazioni in mare, che poi non vuol dire, ecco, come è noto, fermarle, ecco, ma evitare, guarda, che insomma che ci sia vita. No, sì, che durino, che ci siano le concessioni automatiche. Ma infatti su questo devo dire, poi dopo, adesso lo so, mi diranno che sono renziano, ma figurarsi, se io sono renziano non me ne frega niente, no. Però che quando Renzi dice votare sì è uno stop alle trivelle, e in questo dice una bufala, non è vero, cioè non è un referendum su trivellare o no nei nostri mari, è una roba più tecnica, una roba bene più... perché visto che non c'è stata informazione su questo referendum, sì, in modo strumentale, sì. In questo caso si va a votare per abrogare la concessione a vita, cioè per la fino all'esaurimento dei giacimenti e delle concessioni. Certo. Nel momento in cui si vota sì, si dice semplicemente manteniamo le concessioni che ci sono oggi, cioè che durano già anni. Esatto, e quando finiscono, le concessioni, però, non si trivella più lì. Dopodiché un Presidente del Consiglio che non condivide questo referendum dice andate a votare perché sei pienamente cittadino nel momento in cui vai a votare, votate no. Vabbè, non andate a votare. Non so, dai, allora. Anche da parte del guardiano del baro, come giustamente ha titolato oggi il manifesto, cioè l'ex capo dello Stato. Allora, non so, Massimo De Manzoni, uno che non è amico di Renzi, è Libero, non è certamente un giornale vicino a Renzi, però ha detto... Di che bisogna andare a votare. Io non andrò a votare. Tu non andrai a votare. Ecco. Votare non è un dovere, è un diritto. è perfettamente legittimo. No, è un diritto. Diciamo, un diritto. Sia un dovere civico, ma anche un diritto. È entrambe le cose. È un diritto. Siamo persone libere. Siamo persone libere, non c'è nessun dovere di votare. Io non posso non votare, come spesso faccio, anche le elezioni politiche o amministrative. E in particolare il referendum è previsto addirittura già dall'istituto referendario, altrimenti non sarebbe previsto il voto. Cioè proprio è un modo per farla affossare, ma da sempre è stato così. Perché altrimenti andare a votare no vuol dire far vincere il sì, questo lo sanno anche i tassi, e quindi l'unico modo per far vincere il no, se sei convinto di quella posizione, è non andare a votare. Ma avete bisogno di questi trabocchetti? Ma è da sempre così? Ma ti ricordi quando? Perfettamente legittimo. Ti ricordi quando il cardinal Ruini? Dico che lo dica Napolitano, non ti piace questo? No, mi dà il voltastomaco, perché Napolitano si è comportato in modo completamente diverso. Diceva le cose che dice adesso Luisella, non più tardi di 5 anni fa, quando ci furono altri referendum e altre forze politiche sostenevano questo tipo di tesi. Dopodiché, un altro motivo per non votare in Italia è che i referendum sono regolarmente truffaldini. Prima ti fanno credere una cosa che non è. Anche quello dell'acqua fu truffaldino. Sì. Fanno credere che ci stavano per portare via l'acqua e stava per diventare privata l'acqua, cosa che non era vera. Stavolta ti fanno credere che si smetterà di trivellare, cosa che non è vera. Stiamo parlando di 12 impianti in tutto, tra l'altro, cioè quelli entro le 12 miglia. Stiamo parlando di cose molto diverse da quelle che ci vogliono far credere. L'altro motivo per non votare è che poi quando voti e approvi un referendum, regolarmente te lo aggirano. Beh sì, il finanziamento ai partiti. Posso intervenire? Sì, dici Luisella, certo. No, dico, le truffe sono anche di quelle del Parlamento, che poi non rispetta il risultato del referendum e cambia le leggi, perché non fu affatto truffaldino il referendum sull'acqua pubblica. Se poi il governo, come il governo Renzi, rinnega quello su cui si sono espressi con un voto chiarissimo, il 93-95% degli italiani sull'acqua pubblica, aggiunge che la gestione può essere anche privata, questa è la truffa. Fu truffaldino dire che si votava per l'acqua pubblica, perché non è così. L'acqua, cioè, dice, è una truffa dire adesso, la vera bufala è dire adesso che con questo referendum si perderanno posti di lavoro, cosa che non è vero, perché chi lavora nelle piattaforme continuerà a farle per concessioni che durano decenni, quindi è assolutamente truffa dire che senza quel gas noi non copriamo un fabbisogno. Sì, però Luisella, è anche un po' truffaldino dire appunto che domenica si vota per le trivelle sì o no, cioè c'è molta gente che crede se vada a votare non si estrae più petrolio. Si parla di concessioni che nel caso in cui passasse il no o passasse l'astensione come trabocchetto strumentalmente andare a votare, le compagnie petrolifere continueranno anche a fingere di estrarre, porteranno avanti senza bonificare un mare che è uno dei più belli del mondo. In Francia si è deciso una moratoria. Però ti chiedo questo, abbiamo un mare meraviglioso e siamo precipitati dal 7° all'8° posto per il turismo. Che ne pensi di una bella icona di sinistra che piaceva a te come napolitano? Una bella icona di sinistra come di quelle che piacciono a te, come Giorgio. Non è icone, faccio la giornalista critico. Presidente della Repubblica, ex presidente, che dovrebbe invitare alla partecipazione. Invece, presidente della Consulta. Attraverso il voto noi siamo pienamente cittadini, siamo davvero un paese che ha già un'astensione record, quindi bisogna invitare a partecipare. Io dico votate no se credete non che... Ricordati che in America votano il presidente americano con il 50% di persone che stanno a casa. Cosa vuol dire? Siamo peggio degli altri. Però bisogna andare a votare perché dobbiamo approvare una pessima riforma costituzionale. E perché Renzi li dirà votate, dirà Renzi. Saremo la campagna per votare, però lì non ci sarà il quorum. E quindi anche se voterà il 5% degli italiani, si approverà sul gioco tutto di Renzi una riforma pessima. Mentre, vabbè, no, ma è chiaro, è chiaro. A te Massimo invece di Napolitano l'hai già detto, insomma, ti ha un bel assist. Ieri abbia detto anche una cosa che condivido, perché l'ho appena detto, è vero che si può non votare tranquillamente, che è anche una posizione non votare in caso di referendum abrogativi, che lo dica Napolitano, che cambia idea ogni volta in maniera stalinista a seconda di come gli fanno comodo le cose, e che quindi i principi di Napolitano siano tra i più variabili al mondo, e quindi nel giro di poco tempo, di pochi anni, possono cambiare in maniera radicale, perché una volta gli fa comodo così e un'altra volta gli fa comodo così, ripeto, questo mi dà il voltastomaco. In tutta la posizione per caso, ovviamente, sì, continuando a cambiare posizione, questa volta è cascato su una posizione che io ritengo legittima. Sì, sì, sì, chiaro. È per caso. Però è per caso. La pensi così? È per caso. Ti sei svegliato stamattina e hai scoperto che la pensi come Napolitano? Hai avuto un attimo di. La cosa mi ha fatto molto arrabbiare. Di sbandamento. Sì, sì, sì. Allora, vabbè, però, intanto. Che bel messaggio ci arriva da Lecce, malgrado Radio Maria entri perfino nei cornetti alla crema e nel cappuccino, noi del bar stop di Lecce ascoltiamo Milan. Grande il traffico. Ci facciamo i chilometri, superiamo gli ostacoli del traffico, traffico. Ciao Milan, io penso che i politici italiani fanno gli gnoli perché si incavolano contro tutti quelli che chiudono le frontiere, ma il trattato di Schengen non è mica stato fatto per la libera circolazione dei cittadini europei, non dei cittadini di tutto il mondo. Signor Milan, Renzi continua a dire banche e a fare interventi solo a loro favore contro gli utenti. Panama Papers, puntano nuovi nomi, e quindi? E allora cosa gli faranno? Cosa gli possono fare? Finirà tutto in un bubù. Ma che ti devo dire? Non mi va di telefonare, ma sei troppo cretino, non ci resisto. Stai a difendere quella rumena che ha messo le fotografie su Facebook dicendo un sacco di cazzate. Dai Milan, tirati su e ricordati, Brocchi si nasce, campioni si diventa. Oh, allora, vedete, quella sta a difendere quella rumena, no? Sapete di che si parla, Luisella, Massimo, no? Quella che si è messa le foto su Facebook. Ma io non difendo la rumena, dico che se vogliamo discutere del fatto che ha preso 16 anni per un delitto e potrebbero essere pochi, a parte che 16 anni non sono pochi se uno se li fa, 16 anni di carcere. Se vogliamo discutere che dopo 9 anni c'è la semilibertà, insomma, e magari siamo un po' buonisti, discutiamo di questo, magari non sono d'accordo al 100%, ma non ho capito perché se esce si fa le foto su Facebook per questo deve tornare in carcere. Cioè è il meccanismo, no? Però Massimo, qui capisco che è tutto qui la pancia del paese viene fuori, e per carità, sono argomenti legittimi, tu che dici? Sì, è una situazione complicata, perché cioè, non è che lei abbia goduto di una semilibertà definitiva, cioè sì. Godeva di permessi che rinnovava di volta in volta a discrezione del giudice in base al comportamento. Ora, la discussione è il comportamento, cioè mettere delle foto di quel tipo su Facebook, è un comportamento così disdicevole da... Cioè che non può ridere, non ho capito, non può ridere. Quello è il problema, sì, però d'altra parte la reazione dei parenti delle vittime è stata come... ma questo ci prende anche in giro. Ma diciamo che non è proprio diciamo così, cioè nel senso che se sta al mare sugli scogli sorride in una foto, cioè che deve fare? Io vado al mare sugli scogli, sorrido, non metto nessuna foto su Facebook, a parte che non sono neanche Facebook. È l'esibizione forse che ha dato fastidio. Ha dato fastidio. Non è chiaro che non è vero che non potesse andare al mare, non è vero che potesse sorridere. Però esibirsi così probabilmente ha dato fastidio. Che ha dato fastidio vittime, sicuramente. Ma che l'hanno detto e ha dato fastidio. E via. Dopodiché il provvedimento era arbitrario. virgolette da parte del giudice di rimetterla in libertà, dargli quel tipo di permessi. Ed è stato era arbitrario in un senso, è stato arbitrario anche nell'altro. Oh, no, ma perché io non discuto. Tu, Luisella, questa storia l'hai seguita. Guarda che qua la gente è molto sensibile, eh? Stai attenta. Sì, no, ma trovo la vicenda ai social network assolutamente accessoria rispetto alla sostanza. A parte che sono foto vecchie, ma il problema non mi sembra quello. Problema mi sembra una condanna ad appena 16 anni per omicidio e una semilibertà, tutto secondo la legge, tutto legittimo e legale, ci mancherebbe, ma non condivido assolutamente che dopo 9 anni una persona che ha ucciso un'altra persona, un assassino a tutti gli effetti possa essere in semilibertà. In semilibertà, quindi il grave, e credo che quello che turba di più i familiari sia indubbiamente questo. Sono per la certezza della pena, si lancia un pessimo messaggio nel momento in cui un assassino può ottenere benefici di legge di questo tipo dopo appena 9 anni. Su questo sono d'accordo con te, uno può fare una battaglia su questo. Non mi toccano assolutamente, trovo gravissimo che appunto per un omicidio uno paghi con così poco e poi è già fuori dopo 9 anni sia in tra l'altro da... Invece il padre ieri è intervenuto alla Zanzara, il padre di Vanessa Russo, colei che è stata uccisa, è per la pena di morte. Sapete quanto io sono contrarissimo alla pena di morte, sempre comunque lo dico, però per dovere di cronaca, eccolo qua. Vita umana non c'ha lei a favore presto, della pena di morte? Lei a favore della pena di morte? Io sì, non è cattiveria la mia, non è cattiveria. No, però ci vuole. Ci vuole, non è cattiveria. Vabbè, ma insomma, che vuoi dire? Alessandro, i parenti delle vittime hanno il diritto di dire quello Certo. Infatti io è quello che rispondo sempre, cioè probabilmente toccasse me, anch'io potrei avere l'istinto personale di volermi vendicare, di volere uccidere, ma l'istinto di una persona, viva Dio, abbiamo una cosa che si chiama Stato, che ci sono, che si chiamano leggi, infatti, magistrati, infatti giudici, che mi impedisce di essere un carnefice. Infatti non lo ascoltiamo, ma da lì a metterle in libertà dopo 9 anni? No, questo sì, questo sì. Un po' di sfumatura. Questo sì, però... Vorrei far sentire in conclusione soprattutto a Luisella Costamagna ciò che Sinisa Mihajlovic, il grande Sinisa, sai cosa ha detto? Ho visto, intravisto, te lo faccio anche sentire, perché Melissa Satta, che è la fidanzata, la moglie, non lo so, di Boateng, che Mihajlovic non faceva mai giocare perché pesa 110 kg più, scherzo, ha criticato Mihajlovic e Mihajlovic ha detto questo. La Satta ha visto cosa ha scritto? Che nello spogliatoio c'era tensione. Io penso che comunque non sono razziste, però donne non dovrebbero parlare di calcio perché comunque non sono adatte a parlare. Le donne non dovrebbero parlare di calcio, non siete adatte? Luisella, non siete adatte, siete più adatte ai fornelli, tipo allo straccio del pavimento, per esempio, certo. No? No, vabbè, non sono razzista. Una delle tante cose, anche mi ricordo Mancini contro Micaela Calcagno, mi è capitato anche di difenderla sui social network. Ti è capitato anche questo nella vita, difendere. Ma sì, sono cose assolutamente banalmente vergognose. Sì, ma d'altronde, tu sei juventina, quindi non avresti diritto alla parola... Proprio per... uomini fossero così acuti, insomma. Vabbè, ma tu Juventina proprio non hai diritto a parlare, cioè che devi fare? Va bene, intanto vi mando un abbraccio, Luisella Costamagna e Massimo De Manzoni, grazie per essere stati qui, c'erano tanti temi che volevo affrontare ma il tempo è tiranno, vi abbraccio. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità, pensa Unica. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. Sono le 7:21 minuti, cari ascoltatori, ci siamo con la rassegna stampa di 24 mattino. Dai, dobbiamo subito leggere i giornali. Tuffiamoci. È venerdì 15 aprile, qualche titolo, l'apertura sulle banche per il Sole 24 Ore, dal fondo Atlante effetto leva da 50 miliardi, questo è il titolo di prima pagina, mentre l'attacco di Renzi al referendum è l'apertura del Corriere della Sera, referendum attacco di Renzi, i migranti, l'Italia e l'Europa fermare l'esodo dalla Libia, è il titolo di apertura di Repubblica, così la Stampa, migranti, l'ira dell'Unione Europea sull'Austria, mentre c'è chi sceglie il canone Rai, ne parleremo dalle 8:20, avremo il sottosegretario Giacomelli e anche Roberto Fico che è il presidente della Commissione Vigilanza Rai. Libero, stop al canone Rai in bolletta, il giornale, i giudici spengono il canone Rai. Mentre il Messaggero ha un'intervista a Rossello Orlandi, capo dell'Agenzia delle Entrate, lotta all'evasione si cambia. Partiamo da qui, dalla lotta all'evasione, perché parla Flavio Briatore. Finito nei Panama Papers, secondo l'Espresso, fa un'intervista con Repubblica, intervistato da Marco Mensurati, dice altro che evasore, è una bufala, una bufala. È molto semplice, dice Briatore, io sono residente all'estero, col fisco italiano non ho nulla a che vedere se non per le aziende che lavorano lì. Succede così in Italia, come in Messico o a Dubai. È una storia vecchia, quando sono uscito da Benetton volevo reinvestire in azioni, il mio consulente era David Mills, gli chiesi una società per fare l'operazione e lui mi cedette la Struje e noi abbiamo fatto l'operazione in Italia, abbiamo pagato le dovute tasse e fine. È una storia vecchia, sono io che chiedo com'è che viene fuori questa vicenda, col fisco italiano non ho nulla a che vedere. E poi ancora Briatore attacca anche la lista Falciani, in cui secondo voi ero, che fine ha fatto? Mi risulta che l'80% degli accusati poteva tranquillamente avere i soldi all'estero. E anche la famosa cuoca della Formula 1 con 30 milioni, come scrivevano i giornali. Non era una cuoca, ma una manager che usava la carta di credito aziendale e che in quella carta era accreditata sul conto aziendale su cui transitavano i soldi di tutto il team, compresi gli stipendi di Alonso. Insomma, contrattacca Briatore, scrivete Briatore evasore e la gente ci crede, poi vai a spiegare che sono 30 anni che Briatore è residente altrove e non può nemmeno tecnicamente essere un evasore. Io stasera apro a Dubai un posto con 240 impiegati, di cui 140 italiani, toscani, campani, veneti, che se ne vanno dall'Italia per cercare un'opportunità. Faccia lei. Così si chiude l'intervista di Flavio Briatore, che dunque contrattacca altro che Panama Papers. Questa la trovate su Repubblica, pagina 15. Mentre, attenzione, perché torna a parlare Tronca, Tronca, Tronca, e tra l'altro di questo tema forse poi ne parlo con Oscar Giannino, perché dovremo tornare ad affrontare questo tema degli sfratti a Roma. Si chiama in realtà piano di attuazione del programma regionale per l'emergenza abitativa per Roma Capitale, perché sapete che ci sono state tante problematiche, tante regole violate negli anni scorsi a Roma, e ora Tronca sta cercando di ripristinare la legalità. E ci sono 16 edifici occupati da liberare in via prioritaria a Roma. Ma attenzione, perché Tronca, prefetto a Roma, dice «Io vorrei essere ricordato dai romani», dice tutto ciò in un'intervista ad Avvenire, intervistato da Vincenzo Spagnolo, «vorrei essere ricordato dai romani come un uomo delle istituzioni che ha lavorato per valorizzare la legalità, ma non in modo cieco, non come dice qualcuno». Tronca, stronca, ma nel modo condiviso, in un modo partecipato. Insomma, Tronca dice, in diversi di quegli edifici a sgomberare sono ospitate attività di persone invalide, associazioni sportive, onlus, enti caritativi, malati, centri qualificati di aggregazione dei quartieri, volontari, partiti, le pare che voglia mandarli via proprio io? Però non posso non adempiere ciò che la magistratura contabile mi chiede di fare. Ecco perché, mentre gli uffici capitolini vanno avanti, ho voluto sentire tutte le componenti sociali interessate e da ognuno ho registrato la piena condivisione a cercare una soluzione diversa. Insomma, dice Tronca, nessuno sarà messo in mezzo alla strada. Cercheremo di trovare soluzioni perché la legalità non può fare a meno della solidarietà, altrimenti si trasforma in una burocrazia arida che non porta a nulla. Così Tronca su Avvenire, intervistato. A proposito di cieca burocrazia, sentite questa storia che ho letto e ho trovato su Libero. Vai a ritrovarla adesso. Vabbè, è la storia che viene da Treviso di un signore che ha un debito di, pensate quanto, pensate un debito, una montagna di denaro, 1,13 euro, 1,13 euro, si chiama Giampaolo Fassa, racconta tutto Libero a pagina 17, messo all'angolo per 1,13 euro, un debito che probabilmente non sapeva neanche di avere. E anzi, infatti, non sapeva di avere, gli è stata rifiutata una fornitura, è titolare di un'impresa edile, è considerato infatti un cattivo pagatore. E dunque Equitalia mette le ganasce ideali alla sua azienda. Gli viene negata una fornitura perché è considerato cattivo pagatore, aveva un debito di 1,13 euro. Succede anche questo in Italia, così come succede, ormai lo sapete, che Rina Junior si è accomodato nel salotto di Bruno Vespa. E oggi Salvo Palazzolo su Repubblica racconta una storia inedita fino a questo momento, e cioè le intercettazioni che anno fa raccontano un Rina Junior un po' diverso da quello che abbiamo visto da Bruno Vespa. Papà li scannò tutti. Questo, per esempio, è una delle intercettazioni di Rina Junior. Così parlava Rina Junior prima di scrivere libri, le frasi non dette in TV. Salvo Palazzolo va a scoprire in cima a uno scaffale della Procura di Palermo, Rina più 23, scritto sulla copertina, un vecchio processo. Capitolo 1. Totuccio si fumò a tutti, li scannò. È il racconto della guerra di mafia tra mafiosi. C'era quel cornuto di Cristina, Malantrino e Spiuni, uno della cupola, un pezzo storico alleato di quelli Badalamenti. Minchia, Totuccio li scannò a tutti. Così parlava il figlio. E ancora, quando gli hanno sminchiato le corna gli stiddari che c'erano in tutta la Sicilia, da Gela a Marsala, ci fu un'estate di vampe, ferro e fuoco. Qualche 75 morti ci furono qua, solo in un'estate. Che razza gli stiddari, qui ci vuole il revolver, ma non il revolver normale, qua ci vuole il 357 che con ogni revolverata ci ha scippato un cranio. E ancora le stragi Falcone e Borsellino. Un colonnello, diceva Rina Junior, deve sempre decidere lui e avere la responsabilità lui. Deve pigliare la decisione, e la decisione fu quella: abbattiamoli. E sono stati abbattuti. Ecco, in queste intercettazioni c'è forse Rina Junior che non abbiamo visto da Bruno Vespa. Papà li scannò tutti, le frasi non dette in TV dal figlio del capo dei capi, nelle intercettazioni esaltava la ferocia della cosca. E va bene, ma siamo all'articolo che mi fa pinzare della giornata, l'articolo da Mani sul Volante, l'articolo che ci fa tutti fibrillare, l'ho detto, fibrillare, ma voi state sereni, tranquilli, nei vostri abitacoli, nei vostri treni, nei vostri aerei, dove non ci potete ascoltare in diretta, magari in podcast, state sereni, le vostre colazioni, appoggiate solo le tazzine e il caffè bollente in questo momento, perché dobbiamo raccontare di una multa. Una multa che, come scrive Libero in prima pagina Tilio Barberi, è arrivata a un verduraio di Piazza Vittoria a Trento. Questo verduraio si chiama il fruttivendolo Gianni Endrizzi, dicono molto famoso al mercato di Trento, ha esposto dei fagiolini siciliani e ha scritto fagiolini siciliani, ma secondo la legge avrebbe dovuto scrivere provenienza Italia, e per questa fatale mancanza, che mica lo sanno tutti che la Sicilia sta in Italia, si è beccato una bella multa da 700 euro. Scrive Fagiolini Siciliani, fruttivendolo, multato. Agghiacciante quello che dicono, è una vergogna. Mi una rassegna stampa che mi cola Alessandro Milan, allo mai sentudere, al number one dell'informazione. Ma chi è? Ma chi è? Vabbè, eccoci qua, cari ascoltatori. Che è? Oh mamma. Ah, ho capito. Sono le meazza meno 10 minuti. È giusto, è giusto. Dobbiamo un attimo riscandire questi momenti. E allora mancano 10 minuti e sono le meazza meno 10. E riprendiamo dalle notizie legate al referendum. Ieri Renzi ha detto, per quel che riguarda il referendum di domenica sulle trivelle, occhio alle bufale, è legittimo astenersi, è ovviamente l'ite nel Partito Democratico. Roberto Speranza dice che è inaccettabile che Renzi guidi il fronte, faccia il capo del partito del non voto. Renzi invece cita l'intervista ieri di Giorgio Napolitano, ex capo dello Stato, con Repubblica, e anche Napolitano ha detto è legittimo non votare, e qui c'è il dibattito proprio tra chi a questo punto dice andate a votare, chi invece no, Renzi su tutti. E c'è da segnalare, per esempio, sul Corriere della Sera due posizioni: Michele Ainis, costituzionalista, che parla di dovere nella carta, fa un po' la storia, la cronistoria del non voto e del quorum mancato nei vari referendum della storia. E poi della storia repubblicana racconta Michele Ainis che si rivelano fallaci, a mio modo di vedere, le critiche al presidente della Consulta Paolo Grossi, che ha detto il voto è un dovere, esprime la pienezza della cittadinanza. Che altro avrebbe dovuto dire, scrive Ainis sul Corriere, che il referendum è uno spreco di tempo, che l'elettore virtuoso coincide con il non elettore, che le sole urne democratiche sono le urne cinerarie? I guardiani della Costituzione non possono ignorare le sue norme più pregnanti. E allora, articolo 48 della Costituzione, il voto è un dovere civico. Poi certo il voto è anche un diritto e ciascuno resta libero di esercitare o meno i diritti che ha ricevuto in sorte, tanto più quando si annuncia un referendum la cui validità è legata al quorum. Ma questo vale per i cittadini, non per quanti abbiano responsabilità istituzionali. Per Ainis loro sono come i professori durante una lezione, non possono dire tutto ciò che gli passa per la testa perché hanno un ascendente sugli allievi e non devono mai usarlo per condizionarne le opinioni. Quindi la posizione di Ainis è che Renzi in qualche modo, ma così anche Napolitano, è un po' come quel professore, insomma, che rischia di condizionare, quindi ha il dovere in qualche modo di essere un po' super partes, diciamo così. Intanto racconta anche il Fatto Quotidiano la posizione di Piero Pelù, cioè, perché noto esperto di energia, Piero Pelù, che dice bisogna andare a votare. Vabbè, insomma, ognuno poi la penserà come vuole. Pare, secondo i sondaggi, che se si raggiungerà il 40% e quindi il referendum non sarebbe valido, il 40% sarebbe già un trionfo secondo alcuni. E poi c'è lui, Adriano Celentano. Lui. Non è sui giornali, ma lo voglio leggere comunque, perché è tornato Adriano con i suoi post nel mondo di Adriano, cioè il blog di Adriano Celentano. Ah, siamo anche in diretta in questo momento su Facebook, sul mio profilo pubblico, mi potete vedere. Evviva! Allora, Adriano Celentano torna con le sue parole gridate, con le sue maiuscole. Ragazzi! Chiunque voi siate, di qualunque età e ovunque voi siate, domenica fermate il tempo delle preoccupazioni e concentratevi su quella più imminente, ossia il voto contro le trivelle, che non dovrà essere altro che un trionfale sì. Sono saltato anche un po' sulla sedia. Non prendete sotto gamba il motivo di questa data, poiché sarà solo l'inizio di una battaglia molto più grande, l'eliminazione immediata di tutti i perforamenti nel mare. E vabbè, così continua Adriano, vi saluta Adriano Celentano. Va bene, referendum sì, referendum no, staremo a vedere. Sentite, l'altra notizia politica del giorno certamente sono i funerali di Gianroberto Casaleggio e il che succederà al Movimento 5 Stelle. Lo chiederemo sicuramente anche a Roberto Fico, presidente Commissione Vigilanza Rai. Oggi parla Luigi Di Maio, vicepresidente della Camera, colui che è additato da tutti come il futuro leader del Movimento 5 Stelle. Lui a Repubblica, intervistato da Annalisa Cuzzocrea, pagina 11, dice: niente voto su di me, non sarò incoronato, il leader resta Grillo. Sono solo stanco, dice Di Maio. Leggo che Davide e Roberto, cioè Casaleggio e Fico, sono contro di me, ma non esiste. Si scrive di un voto online. Anche questo non esiste. Un voto per fare cosa? Sono 3 anni che si parla della mia incoronazione. Ogni Italia a 5 stelle mi avete rovinato quei momenti. Noi ora dobbiamo pensare a vincere a Roma, concentrarci sulle amministrative, continuare a lavorare. E Roberto Fico lo dipingete come un duro, un ortodosso, invece quello che più sta vicino a tutti noi. Insomma, non ci sono caselle vacanti, così Di Maio dice a Repubblica. Davide Casaleggio ci darà una mano, prenderà il posto del padre. E comunque nega che ci sia un voto online e tantomeno una sua investitura in qualche modo. Oh, vi devo citare questa cosa invece delle pensioni, perché il ministro Poletti fa un'intervista su Repubblica, intervistato da Roberto Mania, parla del part-time agevolato, quello a cui aderiranno secondo lui 30.000 italiani. Mentre parla anche della flessibilità in uscita delle pensioni, dice: non è la stessa cosa, perché il part-time agevolato rappresenta il primo tentativo di dare una risposta a un nuovo fenomeno sociale, quello dell'invecchiamento attivo, mentre per quel che riguarda la flessibilità in uscita dice al 51% di possibilità di concretizzarsi. Però sulla questione delle pensioni mi ha molto colpito anche quello che raccontano Il Giornale e Il Giorno. Perché sapete che si è molto discusso delle pensioni di reversibilità, se toccarle o non toccarle. Il commissario Guttgeld, qui a questi microfoni, commissario alla Spending Review, ha detto non verranno toccate. Ma c'è un dato che ha molto colpito, un dato. Ed è questo. Elena Polidori lo racconta sul Giorno, ma lo raccontano anche sul Giornale. La reversibilità. Sapete in media quanti italiani godono della reversibilità, la percentuale di reversibilità tra gli italiani? È il 14,5%. Sapete tra gli ex parlamentari quant'è questa percentuale? Il 30%. Così, così. Reversibilità, record in Parlamento. La Camera raddoppia la platea. Vincoli molto severi per i familiari degli iscritti all'INPS, che hanno il 14,5% di reversibilità, mentre alla Camera questa percentuale di ex parlamentari, che di familiari di parlamentari che godono della reversibilità, è il 30%. E vabbè, sono cose che capitano, direbbe un film molto molto preciso. Eccoci qua, lo so. Lo abbiamo. Sono le Meazza in punto. Rispolverato anche perché devo salutare la voce ufficiale di Radio 24, quella che fa tutti i promo, il nostro Christian Jansante, che lo so che in questo momento mi starà ascoltando e dirà. E mi ha detto: mettimi le Meazza in punto, perché io in base a quello regolo la mia vita, la mia esistenza, la mia quotidianità, regolo anche i miei smoccolamenti, diciamo così. Meazza, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Eccoci. Non qua. Non è troppa responsabilità per tutto questo. Non lo so, vedi tu, vedi di non presentarti mai o in anticipo o in ritardo. Ti sei messo la cravatta? Certo. Sei messo in ordine? Come no? Sei pettinato? Come no? È già più difficile. Questo no, però. Allora, no, devi metterti in ordine, perché a mezzogiorno si svela la precompilata. Ah. Allora, sei preparato? Non sei preparato, ovviamente vieni colto come al solito alla sprovvista da queste incombenze. Allora, da mezzogiorno sul sito delle entrate, 7:30 è unico precompilati. Se non sai bene come gestirli, vai oggi più che mai su Norme e Tributi, dove c'è una piccola guida, ti spiega anche quali spese troverai già inserite e quali invece dovrai completare tu. Sì. È tutto chiaro? Ti sarà tutto molto più chiaro quando leggerai, come sempre, religiosamente, norme e tributi. Perfetto. Oh, ti voglio anche entro mezzogiorno, se possibile. Se hai qualche dubbio, non farmi l'agguato al bar, sì, ma scrivi a il mio giornale chiocciolaelsole24ore.com. Perché voi dovete saperlo che io lo faccio ogni tanto e quindi non mettiamo in piazza poi queste cose anche un po' tristi. Infatti. Senti, non so se tu abbia citato la vicenda del canone Rai. Non ancora. Ecco, sai che avremo Giacomelli, tra l'altro. Ne parliamo sul Sole 24 Ore. Sai che ieri c'è stata questa critica del Consiglio di Stato che ha detto che il decreto di attuazione non va bene, bisogna correggerlo, e quindi il canone Rai nella bolletta elettrica avrà bisogno di un'ulteriore manutenzione. Staremo a vedere. Intanto anche l'Agenzia delle Entrate ha cominciato a dare delle risposte, delle facche, come si dice adesso, e quindi si sta cercando di far funzionare tutto il meccanismo. Sempre sul Sole 24 Ore di oggi, sì, ti voglio segnalare questa iniziativa molto importante di Italia e Francia per un fondo europeo per le crisi bancarie, un'iniziativa congiunta che potrebbe sbloccare l'impasse sulla vicenda della garanzia unica per le crisi bancarie. Me lo puoi ripetere la parola? L'impasse, ti è piaciuto? Una terza volta? Il mio francese è già pessimo così, alla seconda volta non vorrei peggiorarlo ulteriormente. Vabbè. Poi, scusami, qui Radio Disco. Sì. Abbiamo il dato del TFR. Ah. Inoltre abbiamo delle anticipazioni sull'esame da revisore. Tu non hai capito? Chi doveva capire? Ma esatto, capito. Come storicamente Radio Fisco ha insegnato, chi doveva capire ha capito. Inoltre, sempre per cui Radio Fisco, le sezioni unite hanno detto che lo studio associato paga IRAP. Io so che tu non comprendi la rilevanza di quello che sto dicendo. Ma ti assicuro che invece in parecchi hanno compreso. In questo momento per loro è un po' una notizia, perdona se ti cito, mani sul volante. Ecco. A questo punto io mi toglierei di torno, non prima di averti augurato, averti fatto tantissimi auguri per vostro impegno calcistico di domenica sera e naturalmente, come al solito, traffico! Alessandro Milan, la sveglia dell'informazione. Bene, sveglia! Vi leggo tutta una pagina di Celentano, Ve la leggo tutta, dal Vangelo secondo Adriano, ve la leggo tutta, se vi devo svegliare. Allora, c'è un ascoltatore, potete dirmi come si chiama il profilo pubblico di Alessandro Milan? Pensa un po', Alessandro Milan, su Facebook mi trovi così, non in profilo personale però, la pagina pubblica, grazie al profilo personale, dai, non chiedetemi un'amicizia, che non ve la do se non vi conosco, non ve la do. Sono uno all'antica, nella pagina pubblica invece potete fare quello che volete. Allora, dicevamo del precompilato e allora, salto al Messaggero, dove Rossella Orlandi, capo dell'Agenzia delle Entrate, direttore dell'Agenzia delle Entrate, parla e racconta della battaglia contro l'evasione fiscale. Si parla dei conti correnti, verifiche solo sui casi più anomali, tranquillizza la direttrice dell'Agenzia delle Entrate. Su questo dei conti correnti circolano molte leggende, dice intervistata da Luca Cifoni sul Messaggero. I dati per ora non li abbiamo ancora utilizzati, da un anno e mezzo stiamo lavorando per renderli affidabili, ripulirli, standardizzarli, poi ci confronteremo ulteriormente con il garante della privacy. Ma non ci sarà alcun automatismo, non ci saranno liste massive, ma analisi di rischio. Dunque, l'obiettivo è trovare i casi anomali più vistosi, tipo un soggetto sconosciuto al fisco che movimenta 1 milione di euro. Insomma, Rossella Orlandi vuol tranquillizzare i cittadini a dire non è che andiamo a vedere sui conti correnti se spendete 100 euro o 1000 euro per l'amante. State lavorando anche sui Panama Papers? La domanda del Messaggero. Tutta l'amministrazione finanziaria sta lavorando con vari canali sotto la guida del ministro Padoan. Ci sono anche procure che si sono attivate, quindi tra qualche mese potremo dire quali sono gli esiti. Per ora si può immaginare che alcuni di questi soggetti abbiano aderito alla voluntary disclosure, forse anche di più di quelli che lo hanno fatto da Panama. E a proposito di voluntary disclosure, vorrei ricordare che il lavoro in un certo senso sta iniziando adesso con le istanze. Poi ovviamente parla anche del precompilato. Rossella Orlandi intervistata dal Messaggero. Invece ha molto colpito l'inchiesta di Potenza, ci sono tante intercettazioni relative al sottosegretario alla salute De Filippo, ex presidente della Basilicata. Perché guardate i titoli, quante persone vanno prese? Repubblica, pagina 8. Così De Filippo raccomandava, soprattutto nelle conversazioni con l'ex sindaco di Corleto Perticara, c'è questa chiacchierata sul figlio dell'ex sindaco Rosaria Vicino che è finito all'ENI. Doveva, come si chiama? Io questo lo voglio trattare come fosse figlio mio, racconta il Fatto Quotidiano, perché un domani anche per i miei figli avrò bisogno, così De Filippo. E ancora in un'altra intercettazione racconta Repubblica: come si chiama di cognome? Ma quanti ne dobbiamo piazzare? Quanti devono prendere? E l'ex sindaco, la vicino, diceva dovevano prendere una decina di persone. Insomma, l'accusa, peraltro si va verso l'archiviazione, dicevano ieri i giornali, è quella di piazzare persone. Questo è almeno si legge dai giornali. Che dire, vi segnalo, c'è sul giornale, sul Corriere della Sera, che a Milano c'è una sentenza, è stato condannato il monopolio dei tabacchi, l'ex ente tabacchi, a pagare 770.000 euro di risarcimento a una persona che è morta di tumore al polmone perché aveva fumato 1 milione di sigarette in 40 anni di vita, praticamente 2 pacchetti al giorno dal 65. Il giudice cita il fumo nei film, questo è il titolo del Corriere, e condanna. Luigi Ferrarella racconta che il giudice ha detto anche i film, che ne so, con Rita Hayworth, con James Dean, con Humphrey Bogart, incidevano, invitavano, condizionavano le persone comuni a fumare. E questa è una sentenza che trovate sul Corriere. Ma eccoci qui, la carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali, riguarda una lite tra cagnette di razza sedotte a Camaiore, Lucca. La storia riguarda il focoso Lucky. Il focoso Lucky, un protagonista che ha messo incinta 2 sorelle di razza Labrador dai modi più aristocratici. Il giudice l'ha individuato e lo ha fatto castrare. Povero Lucky, lo ha fatto castrare perché i vigili inchiodano il meticcio playboy e zac! Ma chi se ne frega!